Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Dopo un attimo di silenzio di cui Milady approfittò per scrutare Felton che la stava ascoltando, ella proseguì il racconto. Venne la sera. Ero così debole che svenivo ad ogni momento e ogni volta ringraziavo Dio perché credevo di essere sul punto di morire. Durante uno di quegli svenimenti sentii aprirsi la porta. Il terrore fece sì che mi riavessi. Il mio persecutore entrò seguito da un individuo mascherato. Lui stesso era mascherato, ma ne riconobbi il passo, ne riconobbi la voce, riconobbi quell'aspetto imponente che l'inferno ha dato alla sua persona per la sciagura dell'umanità. «Ebbene», mi disse, «siete sempre decisi ad accusarmi. I puritani mantengono sempre la parola data. Quanto a me, mi avete udito. Vi accuserò in terra davanti al tribunale degli uomini, in cielo davanti al tribunale di Dio. Dunque vi ostinate. Lo giuro davanti a Dio che mi sente. Prenderò il mondo intero a testimonio del vostro misfatto, e questo finché avrò trovato un vendicatore. Siete una prostituta», diss'egli con voce tonante, «e subirete il supplizio delle prostitute. Bollata agli occhi del mondo che invocherete, cercate di provare al mondo che non siete colpevole né pazza». Poi, volgendosi a quello che l'accompagnava, «Carnefice», disse, «fa il tuo dovere». Felton gridò, il nome, ditemelo!» Allora, nonostante le mie grida, nonostante la mia resistenza, perché cominciavo a capire che si trattava per me di qualcosa di peggiore della morte, il carnefice mi afferrò, mi buttò riversa sul pavimento, mi strinse fino a illividirmi le carni e, soffocata dai singhiozzi, quasi priva di sensi, invocando Dio che non mi ascoltava, lanciai a un tratto uno spaventevole urlo di dolore e di vergogna, un ferro rovente, un ferro rosso, il ferro del carnefice, si era impresso sulla mia spalla. Felton emise un ruggito. «Guardate», disse Milady alzandosi con maestà regale, «guardate, Felton, ecco come è stato inventato un nuovo martirio per una giovanetta pura e tuttavia vittima della brutalità di uno scellerato. Imparate a conoscere il cuore degli uomini e d'ora innanzi fatevi meno facilmente lo strumento delle loro ingiuste vendette». Con rapido gesto Milady si aprì la veste, lacerò la battista che le copriva il seno e, rossa di finta ira e di ben simulato pudore, mostrò al giovane l'impronta indelebile che disonorava quella spalla così bella. «Ma», esclamò Felton, «questo è un giglio!» «Ed ecco appunto l'infamia», rispose Milady. «Il marchio d'Inghilterra bisognava provare quale tribunale me l'avesse imposto e io mi sarei appellata a tutti i tribunali del regno, ma il marchio di Francia. Oh, con questo ero veramente marchiata. Per Felton era troppo. Pallido, immobile, schiacciato da quella spaventosa rivelazione, abbagliato dalla sovrumana bellezza di quella donna che si denudava davanti a lui con una impudicizia che egli trovò sublime, finì per cadere in ginocchio davanti a lei, come i primi cristiani facevano davanti alle pure e sante martiri che la persecuzione degli imperatori abbandonava nel circo alla sanguinaria lubricità della plebaglia. Scomparve il marchio, rimase solo la bellezza. «Perdono! Perdono!» esclamò Felton. «Oh, perdono!» Milady, negli occhi di lui, lesse «amore, amore» e chiese «perdono di che?» «Perdono di essermi unito ai vostri persecutori. Milady gli tese la mano. Così bella, così giovane, esclamò Felton, coprendo quella mano di baci. Milady lasciò cadere su di lui uno di quegli sguardi che di uno schiavo fanno un re. Felton era puritano. Abbandonò la mano di quella donna per baciarle i piedi. Il suo non era più amore, era adorazione. Passata che fu quella crisi, dopo che Milady parve aver riacquistato la calma che in realtà non aveva mai perduto, dopo che Felton ebbe veduto celarsi sotto il velo della castità quei tesori d'amore che gli venivano così bene nascosti per farglieli desiderare tanto più ardentemente, adesso gli disse: «Non mi rimane che una cosa da chiedervi, il nome del vostro vero carnefice, già che per me ce n'è uno solo, l'altro era lo strumento e nulla più». «Come, fratello?» esclamò Milady. «Devo ancora nominarlo, e non l'hai indovinato». «Cosa?» riprese Felton. «Lui! Ancora lui! Sempre lui! Il vero colpevole!» «Il vero colpevole», disse Milady, «è il devastatore dell'Inghilterra, il persecutore dei veri credenti, il vile ladro dell'onore di tante donne, l'uomo che per un capriccio del suo cuore corrotto farà spargere tanto sangue a due regni, che protegge i protestanti oggi e che li tradirà domani. Buckingham! Dunque è Buckingham!» esclamò Felton esasperato. Milady nascose la faccia tra le mani, quasi non potesse sopportare la vergogna che quel nome le ricordava. «Buckingham, il carnefice di questa angelica creatura!» esclamò Felton. «E tu, mio Dio, non l'hai fulminato, e tu l'hai lasciato nobile, onorato, potente per la nostra comune rovina!» «Dio abbandona chi abbandona se stesso», disse Milady. «Ma dunque vuole attirare sul suo capo il castigo riservato ai maledetti!» continuò Felton con esaltazione crescente. «Dunque vuole che la vendetta umana prevenga la giustizia celeste!» «Gli uomini lo temono e lo risparmiano», disse Milady. «Oh, io», disse Felton, «non lo temo e non lo risparmierò!» Milady si sentì inondare l'animo di una gioia infernale. «Ma in che modo? Lord Winter, mio protettore e padre, si trova implicato in tutto ciò?» chiese Felton. «Sentite, Felton», continuò Milady, «accanto a uomini vili e spregevoli esistono uomini d'indole nobile e generosa. Io avevo un fidanzato, un uomo che mi amava e che io amavo, un cuore come il vostro, Felton, un uomo come voi. Andai da lui e gli raccontai tutto. Mi conosceva lui e non dubitò di me neppure un istante. Era un gran signore, un uomo sotto ogni aspetto pari a Buckingham. Non disse parola, si limitò a cingere la spada, si avvolse nel mantello e si recò a Buckingham Palace». «Sì», disse Felton, «sì, capisco. Anche se con uomini simili non si debba adoperare la spada, ma il pugnale». «Buckingham», proseguì Milady, «era partito fin dal giorno prima, inviato ambasciatore in Spagna, dove andava a chiedere la mano dell'infanta per il re Carlo I, allora soltanto principe di Galles. Il mio fidanzato tornò indietro. Mi disse: sentite, quell'uomo è partito e per il momento quindi sfugge alla mia vendetta, ma nell'attesa uniamoci come dovevamo esserlo, e poi state certo che Lord Winter tutelerà l'onore suo e di sua moglie». «Lord Winter!» esclamò Felton. «Sì», disse Milady, «Lord Winter, e adesso capirete tutto, non è vero? Buckingham rimase assente più di un anno. 8 giorni prima del suo arrivo, Lord Winter morì improvvisamente. lasciandomi unica erede. Donde veniva il colpo? Dio che sa tutto, di certo lo sa. Io non accuso nessuno. Dette queste parole, Milady, come se le forze l'abbandonassero, si lasciò cadere languidamente fra le braccia del giovane ufficiale, il quale, pazzo d'amore, di collera e di voluttà mai fino allora conosciute, l'accolse con passione, la strinse al cuore fremente nel sentire il respiro di quella bocca così bella, sconvolto al contatto di quel seno palpitante. «No», disse, «no, tu vivrai onorata e pura. Vivrai per trionfare dei tuoi nemici». Milady lo respinse dolcemente con la mano, attirandolo con lo sguardo, ma Felton si impadronì di lei, implorandola come una divinità. «Oh, la morte, la morte!» ella disse, velando la voce e le palpebre. «Oh, la morte piuttosto che la vergogna! Felton, fratello mio, amico mio, te ne scongiuro!» «No!» esclamò Felton, «no! Tu vivrai e sarai vendicata, Felton! Io porto disgrazia a tutto ciò che mi circonda! Felton, abbandonami! Felton, lasciami morire!» «Ebbene, moriremo insieme!» esclamò il giovane, premendo le labbra su quelle della prigioniera. Ripetuti colpi furono bussati alla porta. Questa volta Milady lo respinse davvero. «Ascolta», disse, «ci hanno sentiti, vengono, è finita, siamo perduti». «No», disse Felton, «è soltanto la sentinella che mi avverte dell'arrivo di una ronda. Allora correte alla porta e aprite voi stesso». Felton obbedì. Quella donna era già tutto il suo pensiero, tutta la sua anima. Si trovò di faccia un sergente che comandava una pattuglia di vigilanza. «Ebbene, che c'è?» domandò il giovane luogotenente. «Mi avevate detto di aprire la porta se sentivo chiamare aiuto», rispose il soldato. «Ma avevate dimenticato di lasciarmi la chiave. Vi ho udito gridare senza capire quello che dicevate. Ho voluto aprire la porta, era chiusa dal di dentro, così ho chiamato il sergente». «Eccomi», soggiunse quest'ultimo. Felton, smarrito, quasi fuori di senno, stava lì muto. Milady capì che toccava a lei risolvere la situazione, corse alla tavola e afferrò il coltello che Felton vi aveva deposto. «E con quale diritto volete impedirmi di morire?» disse. «Gran Dio!» esclamò Felton, vedendogli il coltello tra le mani. In quel momento una risata ironica risuonò nel corridoio. Il barone de Winter, attirato dal chiasso, in veste da camera, la spada sotto il braccio, stava ritto sulla soglia della porta. «Ah, ah!» disse. «Eccoci all'ultimo atto della tragedia. Come vedete, Felton, il dramma ha seguito tutte le fasi che avevo previsto, ma state tranquillo. Il sangue non scorrerà». Milady capì che se non avesse dato a Felton una prova immediata e terribile del proprio coraggio, per lei sarebbe finita. «Vi ingannate, milord. Il sangue scorrerà, e possa questo sangue ricadere su coloro che lo fanno scorrere!» Felton gettò un grido e si precipitò verso di lei. Troppo tardi, Milady si era trafitta. Ma fortunatamente, dovremmo dire astutamente, la lama aveva incontrato la stecca di ferro che a quel tempo difendeva come una corazza il petto delle donne. Era scivolata lacerando la veste ed era penetrata di sbieco fra la carne e le costole. Tuttavia, in un attimo, la veste di Milady si tinse di sangue. Milady era caduta riversa e sembrava svenuta. Felton strappò il coltello. «Ecco, milord», disse con aria tetra, «ecco una donna che era sotto la mia custodia e che si è uccisa». «State tranquillo, Felton», disse Lord de Winter, «non è morta. State tranquillo e andate ad aspettarmi nel mio appartamento. Ma, milord, andate, ve lo ordino». All'ingiunzione del suo superiore, Felton obbedì, ma uscendo si fece scivolare in petto il coltello. Verso le 4 del mattino giunse il medico. Però da quando Milady si era trafitta, la ferita si era già richiusa. Il medico non poté pertanto valutarne né la direzione né la profondità. Dal polso della malata constatò soltanto che il caso non era grave. La mattina Milady, adducendo il pretesto che la notte non aveva dormito e che aveva bisogno di riposo, mandò via la sorveglianza. Aveva una speranza, e cioè che Felton comparisse all'ora della colazione. Ma Felton non venne. I suoi timori si erano dunque avverati. Felton, sospettato dal barone, le sarebbe mancato al momento decisivo. Le restava soltanto un giorno. Lord de Winter le aveva annunziato l'imbarco per il 23, ed era già il 22 mattina. Tuttavia Milady attese ancora, con relativa pazienza, fino all'ora del pranzo, benché la mattina non avesse mangiato, il pranzo le fu servito all'ora solita. Con spavento Milady notò che l'uniforme delle sentinelle era mutata. Si arrischiò allora a chiedere che ne fosse di Felton. Le venne risposto che questo era salito a cavallo da circa un'ora ed era partito. Il soldato uscì lasciando il pranzo servito. Felton era stato allontanato. I marinai erano stati mutati, dunque si diffidava di Felton. Era l'ultimo colpo vibrato alla prigioniera. Rimasta sola, Milady si alzò. Il letto dove si tratteneva per prudenza e perché la credessero ferita gravemente le scottava come un braciere ardente. Gettò un'occhiata alla porta. Il barone aveva fatto inchiodare un'asse allo sportello. Certamente temeva che attraverso quello spiraglio ella riuscisse ancora una volta a sedurre le guardie con qualche mezzo diabolico. Milady ebbe un sorriso di gioia. Poteva dunque abbandonarsi ai suoi furori senza essere osservata. Percorreva la stanza con l'esaltazione di una pazza furiosa o di una tigre chiusa in una gabbia di ferro. Certo, se le fosse rimasto il coltello, avrebbe pensato non a uccidere se stessa, ma questa volta il barone. Alle 6 entrò Lord de Winter. Era armato fino ai denti. Quest'uomo, nel quale fino allora Milady aveva veduto soltanto un gentleman piuttosto sciocco, si era tramutato in un carceriere perfetto. Sembrava prevedesse tutto, indovinasse tutto, prevenisse tutto. Una sola occhiata a Milady bastò a fargli comprendere quel che accadeva nell'animo di lei. «Bene», disse, «per oggi non mi ucciderete. Non avete più un'arma e d'altronde sto in guardia. Avevate cominciato a corrompere il mio povero Felton. Già subiva il vostro fascino infernale, ma voglio salvarlo. Non vi vedrà più. Tutto è finito. Radunate le vostre robe. Domani partirete. Avrò l'ordine del vostro esilio firmato da Buckingham. Se dite una sola parola a chi che sia prima di essere sulla nave, il mio sergente vi farà saltare le cervella, ne ha l'ordine. Se sulla nave dite una parola a chi che sia prima che il capitano ve lo permetta, questi vi farà gettare in mare. È deciso. Arrivederci. Ecco ciò che avevo da dirvi per oggi. Domani vi rivedrò per dirvi addio. Dette queste parole, il barone uscì. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it